Capitolo 9 di L'anno 3000, un sogno di Paolo Mantegazza. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Capitolo 9. Paolo e Maria, nel loro soggiorno in Andropoli, vollero fare una visita anche alla città dei morti. È situata in una valle ridente, distante 3 chilometri da Andropoli, e vi si giunge per un'ampia via tutta fiancheggiata da altissimi cipressi. Tra quegli alberi secolari si vedono aiuole di fiori e le rose si arrampicano sui cipressi facendo loro ghirlande fiorite. Dove i cipressi finiscono si apre una vasta piazza e nel mezzo si innalza un tempio copiato dall'antico Partenone. Dinanzi alla porta principale è una statua colossale di marmo, un angelo con le ali spiegate come se volesse spiccare il volo verso il cielo. Ha in una mano una fiaccola che arde di giorno e di notte e l'altra mano è appoggiata sopra un'ancora di bronzo. Nel piedistallo che sorregge la statua è incisa questa parola: «Sperate». Entrati nel tempio si sentirono come compresi da un sacro terrore. Il silenzio più solenne regnava in quell'immensa sala poco illuminata da finestroni dai vetri azzurri che facevano piovere sugli uomini e sulle cose una luce singolare, malinconica ma non triste. Era la casa dei morti. Nell'anno 3000 è permesso ogni metodo di distruzione e di conservazione dei cadaveri umani, purché non sia nocivo alla salute. Ognuno morendo esprime il desiderio di essere sepolto, cremato, disciolto, imbalsamato, e nel grande cimitero di Andropoli si possono vedere tutte le bizzarrie dell'umano ingegno a proposito dei morti. Quando la morte sia improvvisa o il defunto non abbia espresso alcun desiderio sul modo con cui debba essere trattato il suo cadavere, provvedono per lui i più vicini parenti e, in mancanza di questi, lo Stato. Il metodo più usato è la dissoluzione del cadavere nell'acido nitrico. Il corpo umano viene ridotto ad una soluzione di nitrati di piccolo volume e che è conservato dai parenti in speciali bocce di cristallo. Le bocce abbandonate dai parenti morti anch'essi sono conservate nella necropoli. Alcuni lasciano per testamento che la soluzione del loro corpo sia saturata con la creta e ridotta così a concime sia sepolta al piede di qualche albero prediletto del loro orto o del loro giardino. Molti però preferiscono la cremazione e i nostri viaggiatori visitarono il forno crematorio. È semplicissimo. Il cadavere è messo nudo in una specie di urna di platino che ha la forma del corpo umano. Quando l'urna è chiusa alle due estremità, che corrispondono al capo e ai piedi del morto, si applicano due fili e una corrente di altissimo calore arroventa l'urna in modo che in soli 5 o 6 minuti è ridotta in cenere. Raffreddata l'urna se ne raccolgono le ceneri, che si consegnano alla famiglia o si servono nella casa dei morti secondo il desiderio espresso dal defunto nel proprio testamento. Alcuni vogliono che, secondo l'antico uso degli indù, le loro ceneri siano gettate in un fiume o nel mare. Altri invece esprimono il desiderio che esse siano deposte nelle aiuole del giardino, dell'orto, del campo per fecondare la terra. Per quelli che non hanno espresso altro desiderio che quello di essere cremati senza dir altro, le ceneri vengono deposte in piccole urne di porcellana e col nome del defunto e la data della morte si serbano nella necropoli. Dal forno crematorio i nostri viaggiatori passarono al laboratorio necroforo dei siderofili. Così si chiamano quegli uomini singolari che, adottando un'idea messa fuori da un chimico francese molti secoli prima, vogliono che dal loro cadavere si estragga tutto il ferro che contiene e con esso si coni poi una medaglietta che porta inciso il loro nome con l'indicazione della patria e la data della morte. In questo modo i superstiti possono serbare un ricordo eterno dei loro cari estinti, portando appesa al collo o alla catena dell'orologio o altrove il ferro che circolava nel loro sangue e faceva parte di tutti i loro tessuti. Paolo e Maria poterono coi loro occhi assistere a tutte le complicate operazioni con le quali si estrae da un corpo umano il ferro che contiene e se ne fabbrica poi una medaglietta. Il lavoro è difficile e dispendioso e perciò questo metodo di distruzione dei cadaveri umani è adottato solo dalle persone molto ricche ed è quindi aristocratico. Uno dei chimici del singolare laboratorio spiegava ai visitatori i processi coi quali un uomo è convertito in una medaglietta non più grande di un antico centesimo e li divertiva narrando loro alcuni curiosi aneddoti. Egli conosceva in Andropoli una signora molto vecchia e che nella sua lunga vita, tutta dedicata ad una larga galanteria, aveva avuto molti amanti, dai quali esigeva sempre che fossero siderofili. Il caso volle che molti di questi amanti morissero in giovane età, per cui essa possiede una ventina di medagliette con le quali si è fatta fare un monile molto singolare. Ogni medaglietta è unita all'altra con un anello d'oro e un brillante, ed essa ha in quel gioiello raccolta tutta quanta la storia della sua vita. Mi dicono che questa buona donna, come facevano gli antichi cristiani con i loro rosari, passa delle ore intiere tenendo in mano il suo rosario d'amore e, passando da una medaglietta all'altra e baciandole una dopo l'altra, ricorda i poveri morti che l'hanno amata. Il nostro chimico narrò pure come la siderofilia fiorisse specialmente nei secoli XVII e XVIII, epoca in cui si può dire che fosse l'unico metodo di distruzione dei cadaveri usato dalle persone ricche. E noi abbiamo qui nel nostro tempio un vero museo di medagliette che furono trovate smarrite o che lo Stato raccolse per la scomparsa delle famiglie a cui appartenevano. Oggi la siderofilia è usata assai poco, perché nell'anno 2858 si scoperse che un chimico di quel tempo che si era dato alla specialità di cavare il ferro dai cadaveri umani per farne poi le medagliette necrofore, si faceva pagare profumatamente l'operazione chimica, ma per risparmiarsi il lungo travaglio, invece di ricavare il ferro dal corpo del morto, prendeva un chiodo o un pezzo di ferro qualunque e con esso coniava la sua medaglietta. Quel furbo aveva davvero inventato un'industria molto lucrosa, da che convertiva un pezzetto di ferro del valore di forse un soldo in una medaglia che gli era pagata fin 500 lire. Egli arricchì immensamente, ma dopo di lui, per molti anni, il pubblico dei morti ebbe grandissima diffidenza e le medagliette di ferro umano, cadute in ridicolo, ebbero il loro tramonto. Non è che da alcuni anni che una società di siderofili si è costituita in Andropoli e qui hanno fondato un laboratorio che presenta tutte le garanzie possibili e dove per turno assistono alle nostre operazioni alcuni consiglieri di questa società. L'ingegnere siderofilo, prima di congedarsi dai suoi visitatori, mostrò loro un laboratorio speciale dove si stavano facendo degli studi per assecondare il desiderio di un ricco milionario, il quale vorrebbe che dopo la sua morte non solo venisse estratto il ferro dal suo cadavere, ma ad uno si isolassero tutti gli elementi, e così l'ossigeno, l'idrogeno, il carbonio, l'azoto, lo zolfo, il fosforo, eccetera. Questo signore, che è un inglese, ha messo a nostra disposizione per i nostri studi più di 1 milione e da se stesso ha disegnato un monumento tutto in pietra dura e che rassomiglia ad un'antica farmacia e dove dovrebbero essere collocati tutti i corpi elementari che hanno costituito il suo corpo. Nessun'altra iscrizione dovrebbe leggersi in questo monumento fuori di questa: corpi elementari che formavano il corpo di NN. Salutato l'ingegnere, Paolo e Maria passarono nella sezione degli imbalsamatori, dove si preparano i cadaveri di coloro che vogliono resistere al tempo anche dopo la morte, conservando integri i loro corpi. La visita fu lunga e molto curiosa, da che gli imbalsamatori nel loro testamento non si accontentavano di dire che volevano che il loro corpo fosse preservato dalla putrefazione, ma dicevano anche come volessero essere imbalsamati. E nell'anno 3000 i metodi di conservazione dei cadaveri sono molti e svariatissimi. I corpi imbalsamati sono poi ritirati dalle famiglie o conservati nella necropoli a seconda del desiderio espresso dal defunto o dai suoi parenti. I nostri viaggiatori, percorrendo il lungo museo degli imbalsamati, poterono coi loro occhi vedere tutto quel popolo di morti superbi che avevano voluto sopravvivere a se stessi. Alcuni pochi erano imbalsamati come gli antichi egiziani, tutti chiusi nelle loro bende incatramate e chiusi in sarcofagi di legno intarsiato e dipinto. Altri erano semplicemente disseccati in un forno dopo essere stati imbevuti di sublimato corrosivo. Facevano ribrezzo, sembrando grandi stoccafissi. Più in là, chiusi in grandi vetrine, si vedono cadaveri pietrificati, rigidi e duri come la pietra, che paiono statue modellate da un pessimo scultore. Meno orribili sono altri imbalsamati col processo più perfetto che si conosca nell'anno 3000. Sono vestiti dei loro abiti e serbano la loro fisionomia e il loro colorito, ma i loro occhi di vetro e immobili paiono guardar sempre fissi in un luogo. Si può ammirare l'arte con cui sono stati preparati, ma fanno terrore e sembrano protestare contro chi ha voluto in uno strano connubio associare la vita alla morte. Maria guardava tutte quelle mummie con un evidente ribrezzo e non potei fare a meno che di dire al suo Paolo: «Paolo mio, se muoio prima di te, io desidero che tu non mi faccia né disciogliere nell'acido nitrico, né cremare, né molto meno imbalsamare. Fammi seppellire nella terra molle e odorosa, senza cassa alcuna, ond'io, anche morta, possa sentirmi circondata e abbracciata dalla nostra eterna madre, dal cui grembo siamo usciti. Io voglio disciogliermi in essa e nutrire col mio sangue e i miei visceri i fiori che tu pianterai sulla mia fossa. Me lo prometti, non è vero, Paolo mio?» «Sì, te lo prometto», rispose Paolo con la voce interrotta dal singhiozzo. «Ma sarai tu quella che mi adagerai nella terra molle o odorosa, perché io ho parecchi anni più di te e prima di te devo fare il lungo viaggio, il viaggio senza ritorno. Ma non parliamo di cose tristi. E come non parlarne, qui dove non siamo circondati che da morti che ci ridestano all'eterno pensiero del mondo al di là, di cui tutta la nostra civiltà non ha saputo svelarci il segreto? Ma andiamo all'ultima tappa del nostro triste pellegrinaggio. Andiamo a visitare il cimitero.» E i nostri viaggiatori rientrarono nel tempio e, avendolo attraversato per una porticina, si trovarono in un vasto giardino, tutto quanto popolato di arbusti sempreverdi e di fiori. Nel mezzo si innalza una colonna gigantesca di bronzo che porta sulla cima una fiamma sempre ardente. Nello zoccolo della colonna sta scritta anche là la bella parola «Sperate». Dalla colonna partono, come tanti raggi, 100 piccoli sentieri che finiscono alla periferia del campo dei morti, e da ambo i lati del sentiero sono poste le tombe. Ogni tomba è un piccolo giardino in miniatura, e in mezzo ad esse si innalza un cippo di marmo nero in cui non si legge che il nome del morto e la data della nascita e della morte, null'altro. «Vedi, Maria, qui non vi è distinzione alcuna tra ricchi e poveri, tra geni e volgo. Chi può pagare il cippo se lo fa da sé, e ai poveri provvede lo Stato. È assolutamente proibito di scrivere sulla tomba alcuna parola di elogio, né di innalzare statue o mausolei sontuosi. Una volta, molti secoli or sono, le disuguaglianze e le vanità umane parlavano ad alta voce anche nei cimiteri, e chi li visitava doveva credere che tutti quei morti erano stati in vita uomini di genio, eroi del cuore o del pensiero, e chi aveva dettate quelle epigrafi aveva spesso tormentato il povero morto quando era in vita, lo aveva offeso, calunniato, forse anche gli aveva affrettata la morte.» Maria disse allora a Paolo: «Ho sempre trovato giusta questa uguaglianza di tutti gli uomini nel cimitero, ma mi pare che si dovrebbe fare un'eccezione per gli uomini di genio, per quelli che con la carità o con l'eroismo hanno resi grandi servizi all'umanità.» «E tu hai ragione, ma questi uomini grandi hanno la loro apoteosi in un Pantheon che è un po' più in là di questa necropoli e che noi visiteremo. Qui giacciono i loro corpi, là troveremo raccolte le memorie delle loro opere.» «Permettimi, Paolo, un'altra osservazione. Mi è sempre parso che nella nostra civiltà lo Stato prenda una parte eccessiva, invadente quasi. E perché i superstiti non possono innalzare ai loro cari perduti una statua, un monumento, se vogliono, anche un mausoleo? Il nostro tempo si distingue soprattutto per il trionfo dell'individualismo, e mi pare che qui, dove si dovrebbe lasciare all'affetto e al dolore tutti i loro santi diritti, lo Stato si intromette con troppa tirannia.» «Ma no, Maria mia, lo Stato non è invasore. Qui dirige e comanda perché le necropoli sono monumenti pubblici, ma ognuno nella propria casa, nel proprio giardino, nel proprio paese è padrone di innalzare ad un caro morto anche un tempio se lo vuole. Ma andiamo nel Pantheon. Là non troveremo più cadaveri, ma dei morti che sono più vivi di quando erano di questo mondo.» Un viale tutto fiancheggiato di alberi giganteschi li condusse ad una vera città, da che ogni regione del globo vi ha i propri templi innalzati alla memoria dei grandi uomini, e ogni tempio ha l'architettura caratteristica del paese a cui quei geni appartenevano. Ne ha la Cina, ne hanno il Giappone, l'India, l'Australia, l'America, l'Africa e l'Europa. In ogni tempio si innalzano infiniti monumenti di bellissimo stile, dove non sono deposte le ossa dei geni scomparsi, ma dove si trova come in compendio tutta la loro vita. E tutti si trova o il busto o la statua, che riproduce i lineamenti del grande stinto, e poi, come in una chiesetta chiusa, si vedono alle pareti tutti i ritratti di lui nelle diverse età della vita. Un albero genealogico della famiglia segna la sua discendenza e poi, se autore di libri, in una libreria sono poste tutte le sue opere con le diverse edizioni e le sue biografie. Spesso si vedono anche gli oggetti che gli sono stati più cari, il suo cane o il suo gatto imbalsamati, i fiori che prediligeva, il suo bastone, la poltrona in cui sedeva e tanti altri oggetti. Se il morto era un artista, si vedono le riproduzioni in fotografia dei suoi quadri, delle sue statue e degli edifici che aveva innalzati. Se era un meccanico o un ingegnere, si trovano nel monumento che gli è stato innalzato i disegni delle macchine inventate, delle strade e dei ponti che aveva costruiti. In una parola, ogni monumento è una biografia parlante dell'uomo grande a cui era stato innalzato. Tu vedi, Maria, che per aver soppressi mausolei vanitosi nel cimitero, i grandi uomini non sono meno onorati da noi di quello che lo furono dai nostri antichi padri, i quali, lasciando ai superstiti la cura di ricordare i loro morti, misuravano col denaro e non col merito l'altezza della statua e il lusso dei marmi, per cui spesso un uomo volgarissimo aveva in quei cimiteri uno splendido mausoleo, mentre un genio non era ricordato che da una modestissima lapide. Paolo, come facevano tutti i visitatori di quel Pantheon, entrando nei diversi monumenti, si levava il cappello, facendo una genuflessione dinanzi all'effigie del grand'uomo. Questi sono i nostri santi e che tengono luogo degli antichi, spesso fabbricati per industrie simoniache da preti furbi ed ignoranti, o che non avevano avuto altro merito che quello di aver digiunato e di aver contraddette le più sacre leggi della natura, quelle che ci comandano di amare e di riaccendere nei nostri figli la fiaccola della vita. Commossi ma non rattristati, i nostri due compagni passeggiarono lungamente nel Pantheon di Andropoli, richiamando alla memoria le grandi azioni e le grandi opere di quei grandi. Maria, commossa profondamente dalla lunga passeggiata, fece un'ultima domanda al suo Paolo. Dimmi, Paolo, qui non trovo più l'uguaglianza che ho veduta nel campo dei morti. Qui trovo monumenti piccini, mezzani, grandissimi. E chi è giudice ed esecutore di queste grandi disuguaglianze? Gli uomini grandi, mia cara, sono tutti degni di gloria, ma sono molto disuguali fra di loro. Abbiamo i geni che con la luce del loro pensiero innalzano un faro che illumina tutto il pianeta, che con le loro opere segnano un'era nuova nella storia dell'umanità, e ne abbiamo altri che con loro talento e lavoro indefesso perfezionano le scoperte dei primi. Né è cosa giusta che si abbiano gloria uguale agli altri. È il concorso dei più, è il voto dei membri della grande accademia di Andropoli che decide quale sia il monumento che deve essere innalzato alla memoria del grande scomparso. E il giudizio non è pronunziato che dopo una lunga e profonda discussione. Fine del capitolo 9, letto da Claudia Calvi.